Jaguar ha deciso di investire sulla formazione degli atleti perché, come la federazione, ritiene che esiste un collegamento diretto e una sinergia tra la mente e poi il nostro fisico, il nostro corpo. La federazione investe da anni nella formazione culturale dei nostri atleti, abbiamo un college universitario a Pavia e un college juniores a Piediluco, dove i nostri migliori talenti possono studiare ed allenarsi per ottenere il massimo risultato. Partiremo con una selezione ampia di ragazzi per arrivare a selezionarne due, ai quali offrire un percorso formativo ad hoc, un personal trainer che li accompagnerà in una crescita personale legata a dei corsi e a delle esperienze formative anche dal punto di vista culturale, per arrivare ad avere una prestazione fisica ottimale con i nostri allenamenti e anche una performance culturale elevata, in modo da renderli indipendenti e poter affrontare anche il mondo del lavoro, o comunque affrontare con un'arma in più l'agone sportivo. Alla fine di questo percorso di formazione e di selezione, attraverso le valutazioni anche di una serie di commissioni create ad hoc, otterranno una borsa di studio che consentirà proprio di arricchire la loro formazione, vero Presidente? In che modo? Quali sono un po' tra virgolette i premi alla fine di questo percorso? Alla fine i premi sono, come ha detto lei, dei master, dei corsi in inglese, delle esperienze in Inghilterra per perfezionare la lingua e dei corsi ad hoc sulla base anche del pregresso culturale dei vincitori.